Pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. Mettetevi comodi. Stiamo per raccontarvi Zanna Bianca, un piccolo grande lupo, di Randall Kleiser. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Il giovanissimo Jack Conroy giunge in Alaska per prendere possesso della miniera d'oro lasciatagli dal padre defunto. Lì Jack trova la guida Alex Larson, che insieme all'amico Skanker accetta di accompagnarlo alla miniera. Nel viaggio Jack incontra Zanna Bianca, metà cane e metà lupo, pronto a dargli la sua amicizia e anche a salvargli la vita. Audiogrammi in radio come al cinema. Una cupa foresta di abeti si stendeva sulle due rive del fiume ghiacciato. Il vento aveva strappato agli alberi il loro bianco mantello di brina e questi, neri e sinistri, sembrava si appoggiassero l'uno all'altro nella luce morente. Un silenzio di tomba regnava sul paesaggio desolato, senza vita e senza movimento, così squallido e gelido da sembrare permeato di un qualcosa di più triste della tristezza stessa. Era la saggezza imperiosa dell'eternità che irrideva alla futilità della vita e agli sforzi dell'umanità. Era il Wild, il selvaggio Wild della Terra del Nord, dal cuore di ghiaccio. Ma in quella regione, sfidando il gelo, c'era la vita. Lungo il fiume ghiacciato scendeva a fatica una muta di cani lupi. Il loro pelo irsuto era coperto di brina. Ad ogni respiro, il vapore che usciva come un getto dalle loro bocche gelava subito e si posava sotto forma di cristalli di ghiaccio sulle loro pellicce. I cani erano bardati con finimenti di cuoio ed erano attaccati ad una slitta con delle tirelle pure di cuoio. Forza, Tiger! Tira, tira, tira! Bravo, bravo! La slitta non aveva pattini ed era fatta di robusta corteccia di betulla. Aderiva alla neve con tutta la superficie. La parte anteriore era sollevata e come ripiegata su se stessa per spingere sotto ai fianchi la neve fresca, come se si trattasse di un'onda marina. Sulla slitta vi era una cassa lunga e stretta, saldamente legata. Vi erano anche altre cose, delle coperte, una scure, una caffettiera e una padella. Ma la cosa che più spiccava e occupava maggiore spazio era la cassa. Davanti ai cani c'era un uomo con un ragazzo che calzava delle larghe racchette da neve. Dietro alla slitta si affaticava un altro uomo. E sulla slitta, dentro la cassa di legno, giaceva un ultimo uomo per il quale invece ogni fatica era cessata. Un uomo che il Wild aveva soggiogato ed abbattuto, fino a togliergli per sempre la possibilità di muoversi e di lottare. Il Wild non ama il movimento. La vita è un'offesa per lui, perché la vita è movimento. E il Wild mira invece a distruggere il movimento. Gela le acque per impedire la loro corsa verso il mare. Succhia la linfa degli alberi finché il gelo raggiunge il loro cuore. Ma è soprattutto contro l'uomo che il Wild incrudelisce nel modo più feroce e terribile, per schiacciarlo e soggiogarlo. L'uomo, in cui la vita scorre più irrequieta. L'uomo, ribelle alla legge che stabilisce che ogni movimento, alla fine, deve cessare. Ciò nonostante, con coraggio indomito, due davanti, uno dietro alla slitta, i tre uomini che ancora non erano morti proseguivano nella loro fatica. Si è allettato un legaccio. Erano vestiti di pellicce e di morbide pelli conciate. Avevano le sopracciglia, le guance, le labbra coperte di ghiaccioli, formatisi al condensarsi del loro respiro, così che non si potevano distinguere i loro volti. Sembravano maschere spettrali, impresari di pompe funebri che in un mondo spettrale seguissero il funerale di qualche fantasma. Ma sotto quell'apparenza erano uomini che penetravano in quella regione desolata, beffarda e silenziosa, che si lanciavano in un'avventura colossale e che volevano battersi contro un mondo potente, ostile e tragicamente immobile. Camminavano senza parlare per non sprecare il fiato necessario al faticoso lavoro. Ovunque era il silenzio, un silenzio così intenso ed opprimente che sembrava materializzarsi in qualcosa di tangibile. Opprimeva le loro menti alla maniera con cui l'acqua grava, con tutto il suo volume, sul palombaro. Gli schiacciava col peso di una vastità infinita. Forza! Tira, tira, tira! Un'ora trascorse e poi un'altra ancora. Già svaniva la pallida luce della breve giornata senza sole, quando nell'aria tranquilla si innalzò un debole grido lontano. Sorse improvviso, crebbe sino a raggiungere la nota più alta, che tenne per un poco, una nota forzata e palpitante, e poi lentamente morì. Avrebbe potuto essere il lamento di un'anima smarrita se non fosse stato impregnato di una certa triste ferocia, di un ardore impaziente e affamato. L'uomo che camminava davanti ai cani girò la testa, a incontrare con lo sguardo gli occhi dell'uomo che seguiva la slitta. Tutto bene, figliolo? Ho visto qualcosa. Laggiù. Lupi, stanno seguendo le nostre tracce da un paio d'ore. La selvaggina è scarsa. Devono essere affamati. Ci danno la caccia. Ai cani. Il lupo non attacca l'uomo. A meno che la fame non l'abbia fatto impazzire. Un secondo grido si innalzò. Un grido acuto che trafisse come un ago il silenzio. Gli uomini ne scoprirono la provenienza. Il suono giungeva dietro a loro, in qualche punto della candida distesa che avevano appena attraversato. Si levò un terzo grido di risposta, sempre dietro a loro, alla sinistra del secondo grido. Al cader delle tenebre, radunarono i cani in una macchia di abeti sulla riva del fiume e si accamparono. La bara, posta accanto al fuoco che avevano acceso, servì da sedile e da tavola. I cani, raggruppati dall'altra parte del fuoco, ringhiavano e si azzuffavano, ma non dimostravano nessun desiderio di errare nell'oscurità. Non l'hai messa troppo vicino al fuoco la tua incerata? Non voglio morire congelato. Skunker, accoccolato vicino al fuoco, stava riempiendo di ghiaccio la caffettiera e si limitò ad un cenno del capo. Alex si alzò e prese una pentola piena di pesci. Vado a dare da mangiare ai cani. Ecco i pescetti, figlioli. E che bella puzza, eh? Voi lo sapete che vi voglio bene. Tocca a te, Slick. Questo è tuo. E quel pescetto anche per fatti. Oh, ma che fai tu? Mordi la mano che ti fa mangiare. 7 pescetti per 7 cani. E a te niente. Che stai borbottando? Avevo 7 pesci per i 7 cani e Digger è rimasto digiuno. Doveva esserci un lupo fra i cani e ho fatto mangiare quel dannato. Ma come mai i cani non se ne sono accorti? Per me sta vaneggiando. Skunker smise di mangiare per gettare un'occhiata attraverso il fuoco e contare i cani. Poi continuò a masticare in silenzio e finì il pasto con una tazza di caffè e si pulì la bocca con il dorso della mano. Un lungo ululato, tragicamente feroce, sorse dalle tenebre. Calmati. Skunker si alzò e prese il fucile. Col fuoco acceso, non si avvicineranno troppo. Te l'ho mai detto che mio zio faceva il cacciatore di lupi in montana? Quando ero piccolo mi calava nelle tane e mi ordinava di sparare ai cuccioli per beccarsi il premio governativo. Quanto diavo farlo? Non pensarci più. Dormi. Intanto gli ululati si succedevano da ogni parte, trasformando il silenzio in un manicomio. I cani, spaventati, si pigiavano gli uni contro gli altri, avvicinandosi al fuoco tanto da bruciacchiarsi il pelo. Alex gettò altra legna sul fuoco e poi aprì la bocca per dire qualcosa, ma cambiò idea. Rivolse invece lo sguardo verso la muraglia di tenebre che li opprimeva da ogni lato. Non si poteva distinguere nessuna forma nella completa oscurità. Si poteva soltanto vedere un paio di occhi che risplendevano come carboni ardenti. Skanker ne indicò con il capo un secondo paio, poi un terzo. Ogni tanto un paio di occhi si spostava o spariva per ricomparire un attimo dopo. Abbiamo compagnia. Riparati dalla luce del fuoco e guarda bene. Mettiamo al sicuro i cani. Mettili giù, fatti, vieni qui, accuccia. Giù, restate lì, accuccia. L'agitazione tra i cani cresceva sempre di più e ad un certo punto, terrorizzate, le povere bestie si rifugiarono dall'altra parte del fuoco, strisciando e rannicchiandosi tra le gambe degli uomini. Nel trambusto, uno dei cani era finito quasi tra le fiamme e aveva cominciato a mugolare di dolore e di paura, mentre si diffondeva nell'aria l'odore del pelo bruciacchiato. Ci fu un po' di confusione anche nella cerchia degli occhi fiammeggianti, che indietreggiarono un poco, ma poi si sistemarono come prima, non appena fu tornata la calma tra i cani. Alex aveva finito di fumare e stava aiutando Jack a preparare un giaciglio di pellicce e di coperte sui rami di abete, che prima di mangiare aveva stesi sulla neve. Skanker grugnì e cominciò a slacciarsi i mocassini. In quell'istante Jack si girò e vide un'ombra muoversi. Accuccia! Guarda! È una femmina. Mezza cagna e mezza lupa. Ecco perché non ha paura del fuoco. È come un'esca. Si porta dietro i cani così il branco può salirle. Un animale simile a un cane scivolava furtivamente, con un'andatura obliqua, nell'alone di luce. Procedeva con diffidenza e nello stesso tempo con audacia, senza perdere d'occhio gli uomini, ma fissando la sua attenzione sui cani. One Ear, il più robusto della muta, si protendeva per quanto gli consentiva la lunghezza della corda verso l'intruso e mugolava appassionatamente. Il fuoco crepitò. Un ceppo cadde, facendo un gran rumore e spargendo intorno una pioggia di scintille. Lo strano animale balzò indietro e scomparve nelle tenebre. La luce giunse alle 9. Alex, Skanker e Jack camminavano già da un'ora. A mezzogiorno, a sud, l'orizzonte si tinse di rosa, scaldato dai raggi del sole invisibile. Pochi minuti dopo, Skanker, che marciava ora in coda, emise un fischio leggero di avvertimento. Alex si voltò a guardare e poi fermò i cani. Dietro di loro, sulla pista, trotterellava una snella forma villosa. Col naso sulla pista avanzava con un'andatura leggera, come se scivolasse senza nessuno sforzo. Quando i tre uomini si fermarono, anch'essa si fermò, alzando la testa e dilatando le narici palpitanti. I cani si erano accovacciati nella neve. Alex e Jack raggiunsero il compagno dietro la slitta. Insieme osservarono lo strano animale che li inseguiva da giorni. Dopo un attento esame, l'animale avanzò qualche passo. Così fece parecchie volte, finché fu a 100 metri dalla slitta. Si fermò con la testa alta vicino a una macchia di abeti, osservando e fiutando i tre uomini. Li guardava in un modo strano, pensoso, come un cane. Ma in quello sguardo non vi era la luce affettuosa che illumina lo sguardo dei cani. Vi si leggeva una fame crudele come le sue zanne, spietata come il gelo. Era grosso per essere un lupo. Le sue forme sparute rivelavano l'ossatura di un animale fra i più grossi della specie. Aveva le spalle larghe quasi 70 centimetri. Il suo pelo era veramente quello dei lupi. Il colore dominante era il grigio, eppure aveva dei riflessi rossicci che apparivano e sparivano, dando al pelo una sfumatura rossiccia indefinibile. Alex agitò minacciosamente la mano e gridò forte, ma l'animale non tradì nessuna paura. La sua attenzione si fece soltanto più vigile e continuò a guardarli con quello sguardo pensoso, spietato ed affamato. Cautamente Skanker tirò fuori dal carico della slitta il fucile, mentre Digger, il secondo cane della muta, si svincolò dalla presa di Jack e corse incontro alla lupa. Digger, torna qui! Digger! Digger! Digger, vieni qui! Dannazione, torna indietro, se no ti frusto! Torna qui! Subito! Digger! Maledetto scemo! Man mano che Digger si avvicinava, la lupa lo osservava e sembrava sorridergli, mostrandogli le zanne in modo conciliante e non minaccioso. Mosse qualche passo verso di lui, come se volesse scherzare. Poi si fermò. Il cane le si avvicinò, sempre attento e circospetto, la coda e gli orecchi dritti, la testa alta. Torna qui! Digger e la lupa erano troppo vicini e la distanza era troppo grande per arrischiare un colpo. Ma Skunk rimpugnò il fucile e si avvicinò il più possibile. Dovrò usare uno di questi proiettili! Fermo! Il migliore cane che ho! Sei infettito! Skunker! Digger! Torna indietro! Fermati! Non sprecare cartucce! Mentre Skunker appoggiava il calcio del fucile alla spalla per prendere la mira, ecco apparire una dozzina di lupi grigi e sparuti che avanzavano a grandi balzi, togliendo ogni possibilità di ritirata al cane. Nello stesso istante, la lupa abbandonò il suo atteggiamento timido e scherzoso. Con un ringhio balzò su Digger. Il cane la rovesciò con una spallata e, vistasi tagliata la ritirata, cambiò direzione in modo da poter raggiungere la slitta, descrivendo un semicerchio. Ma a ogni istante il numero dei lupi che lo inseguivano diventava sempre più grande. La lupa era alle calcagna di Digger e non lo abbandonava. Digger! Col fucile in mano, Skunker si addentrò fra gli arbusti che fiancheggiavano la pista. Le sue intenzioni erano evidenti. Digger! Skunker! Non muoverti! Skunker! Digger! Mi hanno circondato! Digger da me! Skunker! Skunker sapeva che là, sulla neve, in un qualche punto nascosto ai suoi occhi dagli alberi e dagli arbusti, il branco dei lupi e il suo cane Digger si sarebbero incontrati. Ma questo avvenne troppo presto, molto prima di quanto egli si aspettasse. Alex e Jack udirono un colpo, poi due colpi consecutivi. Le munizioni di Skunker erano finite. Ci fu un gran clamore, ringhi, latrati, l'urlo di terrore e di dolore del loro cane e l'ululato di un lupo che era stato probabilmente colpito. È finito. Non possiamo fare più niente. E fu tutto. Dopodiché i ringhi e gli ululati cessarono e il silenzio regnò di nuovo incontrastato sul desolato paesaggio. Alex e Jack ravvivarono ancora il fuoco perché sapevano che solo questo si frapponeva fra il loro corpo e quelle zanne fameliche. Skunker, perdonami. Non ci siamo neanche detti addio. Dormi, è meglio. Prima che i loro occhi si chiudessero, i lupi si erano avvicinati troppo perché si potessero sentire tranquilli. Non avevano più bisogno di aguzzare lo sguardo per vederli. Erano vicini a loro, in un circolo stretto. Alcuni erano allungati sulla neve, altri erano seduti. Altri strisciavano sul ventre avvicinandosi. Altri ancora si spostavano, scomparendo nell'ombra e riapparendo. Alcuni dormivano. Qua e là si poteva vederne alcuni raggomitolati nella neve come dei cani, immersi nel sonno che a loro adesso era negato. Il cerchio tendeva a stringersi sempre di più. A poco, un centimetro per volta, un lupo che strisciava avanti di qua, un altro di là, il cerchio si stringeva tanto che quelle bestie fameliche si trovavano alla distanza di un solo balzo. Allora Alex afferrava dei tizzoni infuocati e li scagliava in mezzo al branco. Ed ogni volta le belve indietreggiavano rapidamente, latrando di rabbia e di spavento quando un tizzone ben lanciato colpiva e bruciacchiava un assalitore troppo audace. Aiutami! Jack! Al mattino gli uomini erano esausti, coi visi tirati e gli occhi dilatati per il bisogno di sonno. Il cerchio di fiamme e di carboni ardenti si interrompeva qua e là, lasciando degli spazi liberi, e quelle aperture diventavano sempre più grandi e più numerose. Avvolti nelle loro coperte, decisero di preparare subito la slitta. Partiamo subito. Proprio nell'istante in cui Jack caricava un sacco sulla slitta, Un grosso lupo fece un balzo all'interno dell'accampamento, atterrando proprio sulla schiena dell'uomo. Grida di uomini, tintinnio di sonagliere, cigolii di finimenti, l'ansimare affannoso di cani sottoposti ad un violento sforzo li avevano destati. Quattro slitte stavano avanzando dal letto del fiume verso l'accampamento fra gli alberi. Cinque o sei uomini erano intorno a loro. Ehi, serve aiuto? Sì, come avete fatto a trovarci? Abbiamo visto il fumo sopra gli alberi. Grazie a Dio. Ci avete salvato la vita. Era stata la lupa ad udire per prima il rumore di voci umane e di gemiti di cani. Ed era stata la lupa a balzare via per prima. Alla testa del branco correva un grosso lupo grigio, uno dei capi. Guidava lui i compagni sulle orme della lupa, ringhiando o azzannando addirittura i più giovani membri del branco che cercassero di sorpassarlo. Alla destra della lupa correva un vecchio lupo magrissimo, segnato dalle cicatrici di molte battaglie e privo di un occhio. Gli era rimasto solo l'occhio sinistro, per questo correva alla destra della lupa. Anche lui cercava di accostarlesi e di modificare la direzione della propria corsa fino a che il suo muso sfregiato ne toccava il corpo, le spalle o il collo. La lupa respingeva queste attenzioni con i denti, come faceva con l'altro maschio che correva alla sua sinistra. Ma quando essi mostravano le loro attenzioni nello stesso istante, essa era costretta a dare una spallata da ambo i lati e insieme a continuare la rapida corsa in avanti. In una notte di luna, mentre correvano attraverso la foresta silenziosa, i lupi si fermarono improvvisamente. Ai loro orecchi giungeva il rumore di cani che si azzuffavano, grida gutturali di uomini, voci più acute di donne che brontolavano e anche lo strillo di un bimbo. Ad eccezione delle larghe tende di pelle, ben poco si poteva vedere, tranne le fiamme del fuoco, nascoste ogni tanto da qualche corpo in movimento, e il fumo che si alzava pigramente nell'aria tranquilla. Era stranamente eccitata la lupa e fiutava con voluttà. Per due giorni la lupa e il vecchio lupo si aggirarono intorno all'accampamento indiano. Il lupo era preoccupato e inquieto, ma l'accampamento attirava la sua compagna, che aveva poca voglia di allontanarsi. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook e in podcast su radio24.it. La lupa si fermò all'imboccatura di una caverna, ne ispezionò con cura i dintorni, poi entrò. I primi passi li dovette fare strisciando. Poi invece le pareti della caverna si allargavano e diventavano più alte. Il vecchio lupo la osservò ridendo e scodinzolando. La lupa aprì la bocca e lasciò penzolare la lingua, esprimendo così la sua soddisfazione. La primavera era nell'aria. La vita rinasceva sotto la neve. Il lupo non poteva più resistere al richiamo della natura. E poi aveva fame. La neve era diventata molle e si procedeva a fatica. Risalì il torrentello gelato, dove la neve protetta dall'ombra degli alberi era ancora dura e cristallina. Camminò per 8 ore e ritornò quando era già buio, più affamato di prima. Aveva trovato della selvaggina, ma non era riuscito a raggiungerla. Si fermò all'imboccatura della caverna insospettito. Degli strani suoni fiochi giungevano dall'interno. Non si trattava della sua compagna, eppure quei suoni gli erano lontanamente familiari. Strisciò piano piano nell'interno e fu accolto da un ringhio ammonitore della lupa. Non ne fu turbato, ma obbedì e si mantenne a distanza. Ascoltò con attenzione quegli strani suoni, che erano come dei deboli singhiozzi soffocati. Tra le zampe della lupa, 5 strani piccoli fardelli viventi, deboli, inermi, che gemevano piano piano con gli occhi ancora chiusi. Nel vecchio lupo si stava risvegliando un istinto che aveva ereditato da tutti i padri dei lupi. Non vi almanaccava sopra, era qualcosa di insito in lui, ed era perciò naturale che egli obbedisse a questo istinto e si allontanasse in cerca di cibo per tutta la famigliola. Il lupacchiotto era diverso dai suoi fratelli e dalle sue sorelle. Il loro pelo già tradiva il colore rossiccio ereditato dalla madre. Lui invece era l'unico grigio della cucciolata. Era veramente un discendente di una progenie di lupi. Fisicamente era una vera copia del vecchio lupo, con una sola differenza, che aveva due occhi, mentre suo padre ne aveva uno solo. E molto prima che i suoi occhi si schiudessero, aveva imparato a conoscere al tatto, al gusto, al fiuto, la madre, fonte di calore, di nutrimento e di tenerezza. Quando erano nati i lupacchiotti, il vecchio lupo si era spinto parecchie volte in un accampamento indiano e aveva saccheggiato le trappole per i conigli per poi portare il cibo nella tana. Il corpicino del lupacchiotto diventava pieno e rotondo, poiché ora c'era della carne da mangiare. Venne poi un giorno in cui il lupacchiotto non vide più il padre apparire e scomparire, né giacere nel sonno vicino all'ingresso. La lupa sapeva perché il compagno non era tornato. Quando aveva trovato ciò che rimaneva di lui, vi erano molti segni della battaglia che si era svolta e si vedevano chiare le orme della lince. Per una mezza dozzina di lupi è una cosa da nulla cacciare una lince, ma è ben diverso per un lupo solo, soprattutto quando si sa che la lince ha dietro di sé una nidiata di piccini affamati. La lupa si ritrovò sola a prendersi cura dei piccoli, sfamarli e proteggerli. E mentre il lupacchiotto cresceva, l'istinto e la legge materna gli imponevano l'obbedienza. Era impossibile arginare l'ondata di vita che si gonfiava sempre di più in lui ad ogni respiro, ad ogni boccone di carne che mangiava. E un giorno, finalmente, paura e obbedienza furono travolte dall'impeto della vita e il lupacchiotto si avvicinò a passi malfermi all'imbocco della tana. Una mattina il lupacchiotto aveva lasciato la caverna ed era sceso al torrente per bere. Passò vicino a un pino abbattuto, attraversò la radura e si inoltrò tra gli alberi. Poi, nell'istante in cui ne annusava la presenza, li vide. Davanti a lui, in silenzio, stavano accoccolati cinque esseri viventi. Fu il suo primo incontro con il genere umano. Un folle terrore misto ad un senso di rispetto si impadronì di lui. Era sopraffatto, oppresso dalla coscienza della sua debolezza. Si sentiva piccolo e meschino di fronte a un potere superiore. Uno degli indiani si alzò, gli si avvicinò e si chinò su di lui. Il lupacchiotto si fece più piccino che poté. Ha le zanne bianche. Questo lupo è mezzo cane. Vero? Lupo ha zanne gialle. Il pelo gli si rizzò involontariamente, le labbra gli si contrassero scoprendo le piccole zanne bianche. E fu questo il nome che gli indiani gli diedero. Zanna bianca. Vi erano molti altri uomini e donne e bambini. Vi erano anche parecchi cani, tutti carichi, tranne quelli che erano ancora cuccioli. Portavano 10-15 chili di roba sulla schiena. Ogni giorno portava sempre nuove esperienze a Zanna Bianca. Imparò presto molte abitudini degli animali uomo, ma da questa maggiore familiarità non derivò del disprezzo nei loro riguardi. Anzi, più a fondo li conosceva, più era costretto a riconoscere la loro superiorità. Una mattina, l'indiano che aveva catturato Zanna Bianca, rivolgendosi a suo figlio, disse: «Accendiamo il fuoco, uccidiamo con armi. Facciamo volare le pietre. Siamo i loro dei. Ci obbediscono solo per questo, e non perché siamo amici». Zanna Bianca aveva già visto lavorare i cani dell'accampamento. Perciò, quando lo bardarono per la prima volta, non si ribellò. Il collare era collegato per mezzo di due cinghie ad una cintura incrociata sul petto e sulla schiena. A questa era legata una corda attaccata alla slitta. Il tiro era composto di 7 cuccioli tutti sui 9-10 mesi. Zanna Bianca, che aveva 8 mesi, era il più giovane e in lui non si era sviluppato il sentimento di solidarietà con gli altri cani della muta. I rapporti tra Zanna Bianca e gli altri cani erano fatti di battagliera in inimicizia. Imponeva ai compagni una disciplina rigida quanto quella che era stata imposta a lui. Non concedeva loro nessuna libertà e gli dovevano il massimo rispetto. Passarono i mesi e Zanna Bianca diventò sempre più forte. Il suo corpo si appesantì. Anche il carattere si forgiò secondo le caratteristiche della sua razza e dell'ambiente. Se non si fosse mai fermato accanto al focolare dell'uomo, il Wild lo avrebbe trasformato in un lupo perfetto. Ma gli dèi avevano preparato per lui un ambiente assai diverso dal Wild, e così diventò un cane con i connotati del lupo. Ma era più cane che lupo. Se nella natura di Zana Bianca vi fosse stata una sia pur lontanissima possibilità che egli riuscisse a fraternizzare con la sua razza, questa possibilità fu irrimediabilmente distrutta quando egli fu posto alla testa della muta. Perché ora i cani lo odiavano. Lo odiavano per le porzioni supplementari di carne, lo odiavano per tutti i favori reali o immaginari di cui era colmato. Lo odiavano perché correva alla testa della muta e perché la visione delle sue zampe posteriori in fuga li faceva impazzire. Zana Bianca aveva quasi 5 anni quando Castoro Grigio lo portò con sé in un lungo viaggio. Arrivò a Fort Yukon durante l'estate. Era l'estate del 1898 e migliaia di cercatori d'oro stavano risalendo lo Yukon verso il Klondike. Giunto al forte, l'indiano si fermò. Gli era giunta voce di quella corsa verso la terra dell'oro ed egli era venuto con parecchie balle di pellicce, di guantoni e di mocassini. Non avrebbe affrontato un viaggio così lungo se non fosse stato quasi sicuro di ricavarne un bel guadagno. Porco diavolo, guarda quel cane! Ma non è un cane, idiota, quello è un lupo. Zana Bianca cominciò a misurare i propri atti con quelli degli uomini bianchi. Gli uomini del forte disprezzavano i nuovi venuti, soprattutto indiani. Forza, seguiamo. Se però gli dei bianchi erano onnipotenti, i loro cani non valevano molto. Erano di 100 razze diverse. Portalo laggiù, vediamo che succede. Nessuno di loro sapeva combattere. Naturalmente Zana Bianca, nemico della sua razza, cominciò ad assalire anche questi cani e subito li disprezzò per la loro incapacità. Erano delicati e senza risorse. Facevano molto chiasso. Si agitavano intorno all'avversario, cercando di compiere con la forza quanto egli riusciva a fare con l'astuzia e l'abilità. Gli si gettavano contro abbaiando e lui li scansava, mandandoli a gambe all'aria e azzannandoli per la gola. Il padrone di uno di questi cani, vedendo il suo animale sopraffatto, disse: «È un diavolo e devo averlo!» «Buono, bello, calmo!» Un dio bianco vide il proprio cane, un setter, fatto a pezzi sotto i suoi occhi. «È il tuo? Guarda che ha fatto il tuo lupo al mio cane! E chi me li paga i danni? Tu lo sai che non è permesso portare un lupo in città?» «Luke, va a cercare una guardia! Se ne occuperanno le giubbe rosse!» «Aspetta, ecco!» Non mi interessano le tue pellicce. Mi prenderò quel lupo. No, non è in vendita. Allora sei fregato, perché dovrai restartene un bel po' in galera. Chiama la guardia, Luke. No. Quanto? Hai fatto un affare. Sei furbo. Per Zana Bianca il nuovo padrone era un vero dio, per quanto terribile fosse. Era al massimo un dio pazzo, ma Zana Bianca non aveva alcuna cognizione della pazzia. Egli sapeva soltanto che doveva sottomettersi alla volontà del nuovo padrone e obbedire ad ogni suo capriccio. Questo lupo ci riempirà le tasche di soldi. Dentro! Si sta già affezionando al posto. Venite, vi offro da bere. Sotto il dominio del dio pazzo, Zana Bianca diventò un demonio incarnato. Incatenato, era stato rinchiuso in un recinto e il padrone veniva continuamente a molestarlo e lo rendeva furioso, tormentandolo in 1000 modi meschini. E ora, lupo, vediamo che sai fare. Sotto, lupo! Forza! Così, forza, forza! Tira! Per me è pronto. Prima Zana Bianca era stato il nemico della sua razza. Ora divenne nemico di tutte le cose e più feroce di prima. Per tutti i tormenti che doveva sopportare, cominciò a odiare ogni cosa, ciecamente, senza ombra di ragionamento. Odiava la catena che lo tratteneva, odiava gli uomini che lo guardavano curiosamente attraverso le sbarre del recinto, odiava i cani che accompagnavano quegli uomini e che ringhiavano contro di lui. Un giorno, la porta del recinto venne riaperta. Zana Bianca si fermò. stava succedendo qualcosa di insolito. Il suo padrone si avvicinò alla gabbia e, guardando Zanna Bianca negli occhi, disse: Lupo, non t'azzardare a tradirmi. Fuori i denti. Uccidi. Azzardalo. Fuori i denti. Vai! Poi un cane enorme venne lanciato all'interno della gabbia, mentre la porta del recinto si richiudeva con violenza. Zanna Bianca non aveva mai visto un cane del genere. Era un mastino, ma la mole e l'aspetto feroce dell'intruso non lo spaventarono. Balzò contro l'avversario, squarciandogli il collo con le zanne. Il mastino scosse la testa, ringhiò e si precipitò contro Zanna Bianca. Ma il lupo balzava ora di qua, ora di là, sfuggendo sempre agli assalti dell'avversario, attaccandolo a sua volta con rapidità fulminea e poi balzando indietro tempestivamente. Azzardalo! Sparanalo, lupo! Sparanalo, uccidilo! Abbia collo! Prendilo, lupo! L'avversario era spacciato fin dall'inizio. Era troppo massiccio e troppo lento e alla fine Zanna Bianca fu trascinato fuori dal recinto dal suo padrone e furono pagate le scommesse. Da quel giorno Zanna Bianca cominciò ad attendere ansiosamente che davanti al suo recinto si riunissero degli uomini. L'ho pagato. Questo significava che un combattimento era in vista e tutto l'odio che riboliva in lui poteva finalmente trovare uno sfogo. E ora forza, lupo, ti voglio ancora più feroce perché devi stravincere, hai sentito? Io starò fino a tre. Uno, due, tre. Forza, uccidi. Azzardalo. Un giorno si trovò davanti un cane, piccolo, tozzo, goffo. Per la prima volta il lupo non si lanciò immediatamente all'attacco. Rimase fermo, con le orecchie tese in avanti, attento e incuriosito. Non aveva mai visto un cane simile. Il padrone spinse il bulldog con una parola di incitamento e il cane si mosse verso il centro del cerchio. Poi si fermò e gettò un'occhiata a Zanna Bianca. Dalla folla degli spettatori si alzarono delle urla. Il bulldog voltava indietro la testa, guardava gli spettatori che gridavano. Non aveva paura, era soltanto pigro. E poi non gli sembrava possibile che il suo avversario fosse quel cane che gli era davanti. Allora Zanna Bianca scattò e dalla folla si alzò un urlo di ammirazione. Con un balzo aveva superato la distanza che lo separava dall'avversario e con la rapidità di un gatto lo aveva azzannato ed era balzato indietro. Da uno squarcio nel collo del bulldog il sangue colava abbondantemente. Ma il cane non vacillò, non ringhiò. Si voltò e cominciò ad inseguire Zanna Bianca. La rapidità dell'uno e la stabilità dell'altro avevano eccitato lo spirito del pubblico. E nuove scommesse venivano lanciate, altre venivano aumentate. Alzati, sbranalo! Difenditi! Parecchie volte Zanna Bianca aveva cercato di rovesciare a terra il bulldog, ma la differenza di statura era troppo grande. Finalmente si presentò a Zanna Bianca una buona occasione per farla finita. Il lupo si lanciò, ma il suo balzo fu troppo alto e lo slancio lo portò a oltrepassare il corpo dell'avversario. Per la prima volta nella sua storia di combattente, Zanna Bianca perse l'equilibrio. A mezz'aria, con uno sforzo terribile, riuscì a girarsi, raddrizzandosi solo in parte e cadde pesantemente su un fianco. Un attimo dopo era in piedi, ma in quell'attimo i denti del bulldog lo avevano stretto alla gola. Il bulldog non mollò. Zanna Bianca cominciò a roteare vorticosamente su se stesso, cercando di liberarsi da quel peso che lo faceva impazzire. Zanna Bianca era diventato come pazzo, dominato soltanto dal desiderio di vivere, non ragionava più. Non poteva far nulla per liberarsi e non riusciva a capire. Mai, mai gli era capitata una cosa simile. Si appoggiò su un fianco, ansando. Sembrava che la battaglia fosse ormai quasi finita. I sostenitori del bulldog erano esultanti, quelli di Zanna Bianca erano depressi e rifiutavano scommesse a 10, a 20 contro 1. Forza, lupo, alzati! Alzati, sbranalo! Ma in quel momento qualcosa venne a distrarre l'attenzione degli spettatori. Si udì un tintinnio di campanelli e due uomini con slitte e cani, vedendo tutta quella folla, Si fermarono e si avvicinarono per vedere la ragione di quella generale eccitazione. Il conducente della slitta aveva i baffi. L'altro, più giovane e più alto, era sbarbato e aveva la pelle arrossata dalla lunga corsa. E alla vista di quello che stava succedendo, si buttò addosso al padrone di Zanna Bianca e lo mandò a gambe levate nella neve. Il giovane si rivolse alla folla circostante gridando: «Qualcuno mi aiuti, presto! Lo sta ammazzando!» I due uomini si chinarono sui cani. Quello giovane afferrò Zanna Bianca per tirarlo via. I cani furono separati, mentre il bulldog si dibatteva energicamente. Zanna Bianca tentò parecchie volte, ma inutilmente, di rialzarsi. Vi riuscì una sola volta, ma le sue zampe erano troppo deboli per sostenerlo e si accasciò di nuovo nella neve. Gli occhi semichiusi erano diventati quasi vitrei. Con la bocca aperta, la lingua a penzoloni, sembrava quasi morto. I due uomini, dopo un breve calcolo, offrirono $150 per Zanna Bianca e, viste le condizioni del lupo, il padrone accettò l'offerta. Il nuovo padrone di Zanna Bianca si chiamava Whedon Scott, uno degli ingegneri più importanti delle miniere. Pagato, pagato. Zanna Bianca, vedendolo avvicinarsi, cominciò ad arruffare il pelo e a ringhiare. L'uomo si sedette a una certa distanza da lui. In questo non vi era nulla di pericoloso. Quando gli dei devono infliggere una punizione, stanno in piedi. Per di più, questo dio non aveva né randello, né frusta, né armi da fuoco. E il ringhio di Zanna Bianca si trasformò lentamente in un sordo brontolio, fino a cessare del tutto. Il dio non fece nessun movimento ostile e continuò calmo a parlare. E la voce dell'uomo e il brontolio del cane continuarono ad innalzarsi all'unisono. Ma il dio continuava a parlare a Zanna Bianca come nessuno mai gli aveva parlato. E parlava con una dolcezza che, misteriosamente, giungeva al cuore di Zanna Bianca. E contrariamente a quanto gli suggeriva il suo istinto, Zanna Bianca cominciò ad avere fiducia in quel dio. Provava un senso di sicurezza. Era il principio della fine della sua vecchia vita. Una nuova vita stava sorgendo, una vita stranamente più bella. Le circostanze lo avevano plasmato e trasformato nel lupo lottatore, feroce, implacabile, insensibile e incapace di farsi amare. Ora il cambiamento era dovuto a una specie di riflusso della vita, quando ormai non possedeva più la scioltezza dell'età giovanile e la sua fibra era tenace e dura, quando cioè la trama e l'ordito dei suoi robusti tessuti erano solidi e aspri e il suo animo inflessibile e gli istinti cristallizzati in regole ben precise, fatte di antipatie, di desideri e di diffidenze. Whedon Scott e il suo figliastro erano giunti fin negli abissi più inesplorati della sua natura e con mano gentile risvegliarono forze sopite o pressoché scomparse. Una di queste forze era l'amore. Ma questo amore non si destò in un giorno. Cominciò con la simpatia e si sviluppò gradatamente. Vedi come fissa il bastone? Devono averlo picchiato sempre. Non si farà più addomesticare. Gli hanno insegnato a odiare. Ci vuole soltanto un po' di gentilezza. Buono. Fidati. So che non vuoi farmi del male. Chissà che cosa ti hanno fatto gli altri. Ma non siamo tutti come loro, te l'assicuro. Andrà tutto bene. Vieni fuori quando vuoi tu. Zanna Bianca non fuggì, benché non fosse legato, perché questo nuovo dio gli piaceva. La vita attuale era certamente migliore di quella vissuta nella gabbia. E poi egli aveva bisogno di avere un dio. Essere sottomesso a un uomo era un bisogno della sua natura. Dapprima diffidente e ostile, Zanna Bianca cominciò a gradire queste carezze. Con l'andar dei giorni, il processo di evoluzione dalla simpatia all'amore si accelerò. E Zanna Bianca stesso cominciò ad accorgersene, benché non sapesse che cos'era l'amore. Questo sentimento si manifestò in lui come una sensazione di vuoto. Un vuoto famelico, doloroso, struggente, che voleva essere colmato. Era un tormento, un'inquietudine cui dava sollievo soltanto la presenza del nuovo dio. Hai fame, amico? Ma certo che hai fame, tu sei sempre affamato. Ehi, ehi, avvicinati. Non va male. Di me puoi fidarti. Per la gioia, il grande amore che era sorto in Zanna Bianca e che lottava per trovare uno sfogo, riuscì a trovare un nuovo modo di esprimersi. Egli protese la testa e la cacciò fra il braccio e il corpo del figlio del padrone, che stava diventando sempre più complice di quel rapporto, quasi rannicchiandosi in quel nascondiglio. Il ragazzo si era accoccolato per terra, di fronte a Zanna Bianca, e lo accarezzava grattandogli le orecchie, dandogli dei colpetti affettuosi sul dorso. E Zanna Bianca rispondeva col solito brontolio, la cui nota festosa era più pronunciata che mai. I due uomini si guardavano, gli occhi di Whedon Scott brillavano. Si stava svolgendo in Zanna Bianca un processo importantissimo. Egli stava scoprendo se stesso e ormai il rapporto con i nuovi padroni era viscerale. In particolare si era instaurato con il figlio di Whedon Scott un vero e proprio amore. Il tempo passava e anche la vita nel paese subì una svolta. Zanna Bianca sentì l'approssimarsi della sventura ancor prima che vi fossero degli indizi tangibili. Non sapeva come né perché, eppure erano gli dei stessi che avevano fatto sorgere in lui questa sensazione. Senza accorgersene, tradirono le loro intenzioni. Il cane lupo, benché non entrasse mai nella baracca, capiva tutto ciò che passava nelle loro menti. Il figlio del padrone con cui Zanna Bianca aveva instaurato un rapporto profondo aveva in programma un lungo viaggio che lo avrebbe portato per molto tempo lontano dalle terre del nord. Così, mentre il ragazzo e il cane lupo guardavano malinconicamente il lago di fronte a loro, Scott si avvicinò e disse: se vuoi salire sulla nave che parte da Skagway, dobbiamo affrettarci. Lo sai che non puoi portarlo con te. Non riuscirebbe a vivere in città. Deve tornare libero. È la sua magia. Crede che anche tu sia un lupo. Ci fu un attimo di silenzio rotto subito da un guaito lamentoso. Poi si udì distintamente un lungo annusare. Il giorno seguente l'ansia e l'irrequietezza di Zanna Bianca si fecero ancora più grandi. Quando il suo padrone usciva, gli stava alle calcagna. Quando rientrava nella baracca, montava la guardia davanti alla porta. Poi, una mattina il ragazzo prese una cinghia di cuoio e la legò al collo di Zanna Bianca. Attraversarono il paese fino ad arrivare in cima alla collina. Dall'assù si dominava qualsiasi cosa. A est il lago, a sud le montagne e a ovest la foresta. La giornata era limpida e il sole riscaldava le pietre. Il ragazzo si sdraiò nell'erba ancora umida e Zanna Bianca gli appoggiò il muso sulla gamba. Amico mio, sta sempre bene, lo prometti? Ora va, sei libero, va. Su, va via! Mi devi obbedire, vattene! Muoviti, vattene! Devi darmi retta, va! Vattene! Corri! Vattene! Zanna Bianca rimaneva immobile, gli occhi fissi sul ragazzo e le spalle rivolte alla foresta. Via di qui! Il Wild era lì, a pochi balzi. La natura lo chiamava, ma l'amore per il suo dio era più forte di quel richiamo. Con gli occhi pieni di lacrime, il ragazzo raccolse un bastone e lo impugnò forte. Zanna Bianca lo fissava con l'espressione con cui un leone in gabbia segue con lo sguardo la frusta. Poi, quando la mano si levò in cielo, Zanna Bianca capì che quello sarebbe stato l'ultimo giorno passato con gli dèi. Il lupo si girò, guardò per l'ultima volta l'unico uomo che lo aveva amato e in un baleno scomparve nella fitta foresta. Corri! Testo tratto da Zanna Bianca di Jack London, Giunco Edizioni. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin.